tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 che tra l'altro si è appena conclusa. Questa sarà per noi la penultima puntata della stagione, a prescindere da un'estate che si prevede già caldissima a livello di mercato, a livello di free agency e a livello anche di restyling per alcune franchigie anche storiche della National Basketball Association. Ma come è giusto che sia, dobbiamo dedicare questo nostro appuntamento alle NBA Finals che si sono concluse rapidamente, molto più di quanto ci saremmo auspicati immediatamente in seguito alle finali di conference, ma come in effetti in molti erano state ampiamente capaci di prevedere. I Golden State Warriors si sono confermati campioni NBA per il secondo anno consecutivo, nonché per la terza volta in 4 anni. Lo hanno fatto esprimendo una superiorità di gioco, di consapevolezza e di organico netta rispetto ai rivali dei Cleveland Cavaliers, i quali presumibilmente il prossimo anno non saranno in grado di ripresentarsi a questi livelli. Ed a causa indiretta dei quali, quindi, la prossima stagione presenterà almeno un elemento di novità rispetto alle ultime 4. Si è trattato di una serie conclusasi con il più classico degli sweep, cioè con un 4-0 attraverso il quale una delle due squadre letteralmente spazza via l'altra, manifestando un divario ben profondo di superiorità. In realtà sappiamo benissimo che, se per una serie di ragioni l'esito di gara 1 fosse stato differente, forse la serie avrebbe potuto allungarsi almeno fino alla sesta partita. Sarebbe bastato che quello sfondamento di Durant su LeBron non fosse finito all'instant replay e che quindi il fischio non venisse convertito nell'opposto per far avviare la sfida tra le due squadre con un vantaggio della squadra in trasferta che avrebbe decisamente modificato l'approccio di entrambe alla serie. E dire che, a parte la serie di episodi e di errori avvenuti in coda di quella già storica gara 1, anche quello che è successo a seguire è parso poter determinare non poco il destino segnato dei Cavaliers. Infatti LeBron James lo racconta solo in conferenza stampa dopo gara 4, ammettendo di aver giocato le 3 gare seguenti alla prima partita con una mano sostanzialmente rotta o quantomeno tanto fortemente contuso da non permettergli un utilizzo preferibile. E questo è avvenuto perché, a suo dire, ha sfogato la frustrazione per la sconfitta prendendo a pugni una lavagnetta negli spogliatoi. Se a questo aggiungete la ditata negli occhi presa sempre nella partita di avvio, per la quale ha giocato le restanti gare con un occhio rosso ed una visibilità infastidita, e date un'occhiata alle sue medie e alla qualità del suo gioco, potete tranquillamente capire il perché in tanti lo definiscono il miglior giocatore quantomeno di questa decade. Tra questi ci sono ovviamente anch'io. Non è bastato un James stratosferico, seppur limitato da un'edizione di playoffs tremendamente faticosa, né un Kevin Love da 20 e 10 in materia di punti e rimbalzi di media, quantomeno nelle prime 3 gare della serie. I Cavaliers sono crollati con la prestazione mastodontica di Durant in gara 3 alla Quick and Loans Arena, giocando la quarta sfida già da sconfitti, moralmente incapaci di provare a forzare un ritorno in California sostanzialmente inutile per le loro speranze. E comunque ovviamente onore ai vincitori, perché anche in gara 4 Golden State domina la partita in virtù di una superiorità assoluta, in virtù di un gioco strutturato, di una preparazione all'incontro che sfiora la perfezione, in virtù di un gruppo amalgamato e carico inevitabilmente di potenziale. Steve Kerr lo ha definito il titolo più complicato da vincere dei 3 precedentemente conquistati, anzi no, dei 2 precedentemente conquistati, questo è il terzo in 4 anni, e questo deriva probabilmente da una stagione faticosa, costellata di infortuni e fastidi alle proprie star, dove la fatica del ripetersi è stata probabilmente percepita più grande di quanto abbiamo visto in campo, dove sostanzialmente le difficoltà più grandi sono emerse solo nella finale di conference contro Houston. In gara 4 l'ennesima grande prova di Stephen Curry, la terza in 4 gare di finale a spianare la vittoria per i californiani, coadiuvato da un Kevin Durant stellare, da tripla doppia messa in saccoccia e da un contorno al solito capacissimo di inserirsi quando necessario. Sostanzialmente l'incontro è già finito dopo 2 quarti infatti, ed il principale motivo di discussione circoscritto alla gara riguarda la nomina del miglior giocatore della finale, finita nelle mani proprio di Kevin Durant per il secondo anno consecutivo. In realtà, pur avendo giocato un incontro di altissimo livello, anche lo stesso KD è apparso lievemente in imbarazzo nel non veder destinato il premio al compagno con il numero 30, autore di 37 punti con 7 triple, oltre a 6 rimbalzi e 4 assist. Sembra quasi che nel decidere il premio si sia calcolata maggiormente la decisiva gara 3, in cui Durant i punti ne ha messi 43 e Stephen Curry non ha decisamente brillato, per quanto autore di 5 punti consecutivi che nel finale hanno determinato l'inerzia della sfida prima che KD la chiudesse con quella famosissima tripla da oltre 9 metri. Chiaramente il titolo di miglior giocatore della finale è cosa che vale zero in relazione ad un titolo, ma la prestazione offerta nelle 4 partite della serie da Curry, se vogliamo guardare il tutto in maniera generale, è stata a mio avviso superiore rispetto a quella dell'ex Oklahoma City, che, non dimentichiamocelo, in gara 1 è apparso decisamente impreciso. In gara 2, oltretutto, Steph ha anche fatto registrare il record per il maggior numero di triple messe a segno in una finale con 9, e probabilmente adesso starà chiedendosi cosa deve fare di più per poter mettere in bacheca l'unico titolo individuale che probabilmente gli manca, di quelli ovviamente alla sua portata. Onestamente, i Warriors sono riusciti a stravincere anche senza bisogno del miglior Klay Thompson possibile, capace di ritagliarsi il ruolo di killer silenzioso in questa edizione delle finali, apparendo offensivamente dal nulla nei momenti in cui poteva spaccare il morale avversario e di conseguenza la partita. Statisticamente non è stato necessario neanche un Draymond Green numericamente brillante, per quanto probabile miglior difensore di squadra per versatilità ed intensità, mentre il preziosissimo rientro di Andre Iguodala nelle ultime 2 partite è stato effettivamente importante e fondamentale, soprattutto in gara 3. In ogni modo, Golden State piace e convince, anche perché appare squadra vera, con i comprimari centellinati nei momenti importanti secondo le proprie caratteristiche da coach Steve Kerr, ognuno di loro capace di giocate importanti nell'economia della sfida in corso. E quindi anche per quest'anno l'importanza ricoperta nell'arco della stagione di giocatori come Livingston, Bell, McGee, Looney, West e Young è da riconoscere, sottolineare ed applaudire. È un gioioso e concreto sistema apparentemente infallibile quello costruito dall'intelletto e le capacità di coach Steve Kerr, ovviamente destinato a restare scolpito nella storia del gioco con la presenza dei 4 singoli nati e cresciuti per risplendere a piacimento, se non più o meno sempre, quando scendono in campo. Come potrete capire, sembrerà quasi ingiusto, ma c'è davvero poco altro da dire sugli Warriors. È inutile continuare a rimarcare le caratteristiche del loro sistema di gioco, il potenziale tecnico in entrambi i lati del campo, quella capacità di seppellire un avversario in pochissimi minuti con una semplice fiammata. Purtroppo la loro grandezza sta rendendo le loro vittorie apparentemente scontate e quindi superficialmente noiose, rischiando così di dar meno valore alle loro imprese, almeno sul momento. Da 4 anni a questa parte la vittoria di Golden State appare un'abitudine, appare qualcosa di scontato che lascia agli altri solo l'interesse di capire chi arriverà secondo, e solo la rocambolesca edizione delle finali di 3 anni fa ha provato ad invertire questo trend, grazie anche a prestazioni mostruose e coincidenti del duo formato da LeBron James e Kyrie Irving, allora in forza ai Cleveland Cavaliers, che vinsero quel campionato. Ed è proprio la mancanza di un altro giocatore capace di decidere le partite, di creare dal palleggio, con doti di leadership proporzionali ed un talento da top di ruolo, che ha determinato questo risultato per gli sconfitti, cioè per i Cleveland Cavaliers quest'anno. Intendiamoci, la squadra di coach Tyronn Lue ha vinto il suo campionato riuscendo a conquistare con una fatica immane la Eastern Conference, ed il fatto che sia riuscita a farlo sostanzialmente facendosi trascinare dal solo LeBron James è però una sconfitta tremenda per una pessima gestione dirigenziale della stagione. Tutto sommato, se riguardiamo indietro a questa post-season, la cavalcata di Cleveland ha rischiato di concludersi rapidamente contro i giovani ed inesperti Indiana Pacers piegati in 7 gare. È proseguita con una convincente serie contro la miglior squadra stagionale ad est, cioè i Toronto Raptors, che evidentemente ha ufficializzato un disagio con la post-season che impone una rifondazione netta, e poi è conclusa prima della finale con una complicata sfida da 7 gare con una Boston giovane privata proprio di quel Kyrie Irving che avrebbe fatto tanto comodo rivedere in maglia Cavs nella finale a seguire, e che probabilmente, come lo scorso anno, non sarebbe comunque bastato. È stato un percorso avvincente proprio perché è stato una sorta di LeBron contro tutti, dove la sfida più difficile era inserire e coinvolgere un contorno insufficiente, sonnacchioso e limitato, naturalmente per capacità. Solo ed unicamente per questo, perché, a parte contro Toronto, Cleveland non meritava, secondo me, ai punti i vari passaggi del turno. Ho accennato poco fa alla pessima gestione dirigenziale della stagione, e da giochi fatti è inevitabile per me tornare a dar la colpa ad una serie di scelte scellerate ed apparentemente senza senso nelle correzioni a seguire. L'aver rivoluzionato il mercato estivo durante la finestra di metà stagione, liberandosi di tutti i nuovi acquisti per integrare un gruppo di giocatori nettamente inferiore per capacità e talento, è stato un autogol clamoroso in relazione alle eventuali velleità di successo dei Cavs stessi, e anche a prescindere dalle voci secondo le quali questa serie di azioni sia stata pilotata o meno dalla volontà personale di LeBron James. Io mi domando solo quanto sarebbe servito in questa finale un giocatore come Dwayne Wade o alla peggio anche Derrick Rose, due giocatori con l'esperienza e le capacità di creare soluzioni personali in isolamento dal palleggio, con le primavere sulle spalle sufficienti per salire in cattedra in momenti eventuali di blackout di squadra. A seguito di una finale dove è stato richiesto ed acclamato un Rodney Hood da 15 punti in gara 3 piuttosto che un disastroso Jordan Clarkson, mi pare che il paragone effettivo tra questi due, Hood tra l'altro è stato deleterio sempre da quando ha vestito la maglia dei Cavaliers a prescindere dalla sua gara 3 non appena arrivato in Ohio, e di due veterani lasciati andare via tanto facilmente sia impietoso. Ed è vero che probabilmente Wade è tornato a Miami di sua spontanea volontà, così come probabilmente Jay Crowder non voleva restare a giocare in questo sistema, ma una società che ha seriamente l'idea di potersi giocare l'anello nella prima settimana di giugno avrebbe anche il compito di imporre a questi giocatori un sacrificio di qualche mese in più, regalando in cambio la prospettiva di una vittoria. E invece è stata assecondata una volontà che tutto sommato vanifica e ha vanificato una serie di investimenti di mercato, cercando letteralmente di raccattare il meglio a disposizione in scambi frettolosi ed apparentemente improvvisati. Detto questo, già in seguito alla sconfitta casalinga di gara 3, il mondo si è concentrato sul probabile approdo di LeBron James nella prossima stagione, perché a prescindere dall'affetto e dal senso di appartenenza, il re non può consapevolmente restare in una situazione tanto devastata, apparentemente tanto priva di prospettive. Una situazione dalla quale potrebbe anche sfuggire lo stesso Kevin Love, più coscientemente sacrificabile da Cleveland come buona pedina di scambio per provare a ricostruire. Un giocatore che, con tutte le attenuanti che vogliamo riconoscergli, ha deluso profondamente in questa stagione, iniziata da conclamato secondo il violino di squadra, dimostrandosi inefficace anche quando capace di portare numeri statistici di apparente rispetto. Ma di mercato, o quantomeno del destino di alcuni giocatori chiave della Lega nella off-season, proveremo a parlare nella prossima puntata del nostro podcast, tralasciando tutto quello che riguarderà il draft in arrivo e tralasciando tante storie e situazioni che sembrano destinate a muoversi nell'universo NBA nei prossimi mesi. Onestamente ci aspettano appunto mesi di strategie che potremmo riassumere facilmente a giochi fatti, in presentazione alla prossima stagione, anche perché dal mio punto di vista le congetture e le previsioni su passaggi che resteranno oscuri fino all'eventuale ufficialità interessano poco. Quello che dispiace è di aver vissuto una finale già scritta senza particolari imprevisti né sorprese, che comunque ha vissuto di almeno tre gare di tutto rispetto, seppur conclusesi nella stessa maniera, cioè con la vittoria di Golden State. Riguardandoci un attimo indietro, in effetti, l'affermazione di Curry in relazione al titolo tanto sudato ottenuto in questa stagione ha maggior diritto di cittadinanza, perché solo la prestazione balistica di Curry in gara 2 ha permesso agli Warriors di non giocarsi quella sfida agli ultimi possessi, chiudendo la metà del quarto periodo, mentre in gara 1 e in gara 3, a prescindere da tutto, sono stati gli errori altrui a determinarne la sorte. Ora, a dirla così, appare quasi che io giudichi i risultati di queste due sfide immeritati a favore di Golden State, e non è assolutamente vero. I Warriors sono stati impeccabili in quelle due gare come nelle restanti due della serie, ma la sensazione è che a Cleveland siano mancati un pizzico di coscienza ed attributi in una serie limitata di giocate decisive nei finali, e per me resta assolutamente una sensazione vivida e realistica. Forse proprio il fatto che con un'avversaria tanto LeBron-centrica Golden State abbia seriamente rischiato di trovarsi in svantaggio 2-1 nella serie, se non per le già citate grossolane amnesie episodiche, questo può lasciarci la speranza di vivere il prossimo anno una stagione meno scontata, anche se gli Warriors avranno molte decisioni da prendere a livello di contorno al quintetto, con tanti del supporting cast in scadenza di contratto che potrebbero essere sostituiti da altrettanti veterani di valore in cerca di una chance importante per vincere l'anello. Tuttavia, come proveremo a vedere nella prossima ed ultima puntata del nostro podcast, c'è un gruppo potenzialmente folto di squadre in cerca della mossa giusta per un salto di qualità che le renderebbe contender e che personalmente mi auguro possano in toto salire di livello per regalare al campionato più bello del mondo un pizzico in più di incertezza. L'appuntamento è quindi rinnovato a tra 7 giorni con il nostro NBA Week, continuando ad invitarvi a seguirci anche attraverso la nostra pagina Facebook omonima. Ancora per pochissimo, se non per un'ultima volta, dopo questo ovviamente, l'appuntamento è rinnovato tutti i venerdì sera nel flusso streaming di Radio Big World, il prossimo sabato mattina sul canale YouTube di Belli 13 ed ugualmente la prossima domenica pomeriggio alle 18 nel flusso streaming di Radio Valdarno. Grazie ancora per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni per i saluti ed i ringraziamenti di rito.